volte nella notte ho incrociato i miei pensieri che si inseguono nel vento, che si incontrano ogni angolo. La saggezza della vita è una cosa ormai scontata, tutti stanno sempre in casa e la pioggia li affatica, ma qualcuno che resiste c'è. L'autostrada verso il mondo è il capitolo di un libro che si legge con la voglia di impegnarsi fino in fondo. Ancora una da fumare c'è. Ci sono io, solitario cowboy, che ti penso nella notte sulle strade di New York. Una ragazza bionda che se ne va, la tristezza di un minuto di felicità. La ragazza bionda ha detto che ha creduto di morire, nel suo cuore tanto freddo è un ricordo il tempo bello. Il cowboy con suo cavallo ha deciso di fermarsi, di sedersi sulla strada, di gridare per sfogarsi. I want someone to hold in my hand, to take all day long, not to be alone. My life is so hard, I don't know what to do. A girl near me can make me happy. Ci sono io, solitario cowboy, che ti penso nella notte sulle strade di New York. E una ragazza bionda che se ne va, la tristezza di un minuto di felicità. E arriva la ragazza bionda, ciao cowboy, che cosa fai questa notte fuori? Ti stavo cercando. Corriamo insieme, se ti va. Va bene, stringimi se vuoi. Insieme a te non avrò più paura.